Groove to Groove. Oggi facciamo gli auguri a una leggenda NBA, all'americano più forte che abbia mai calcato i parquet italiani. Spegne 72 candeline. Du, du, Bob McAdoo. E facciamo gli auguri anche al più grande secondo violino a tutti i tempi, 6 volte campione NBA, Scottie Pippen, 58 anni per lui. Buongiorno a te Paolo, nuovamente buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, amiche e amici sportivi e non sportivi. Il Mood to Groove imprevedibile del martedì 26 settembre. E bisogna omaggiare più che altro il mese di settembre, particolarmente fertile di campioni. Ne aggiungo un altro, magari daremo anche in pillole qualche notizia per il compleanno di The A-Train, Artis Gilmore. Ma oggi il protagonista, e magari creiamo anche un po' di animata discussione ricordando il 333-180-9494 WhatsApp, Telegram, SMS con Dudu, Bob McAdoo. Perché Dudu? Du, voce del verbo fare, quindi dai, fai punti, cambia volto alla partita. I tifosi dei Lakers ogni volta che Bob McAdoo si alzava dalla panchina per entrare in campo inneggiavano così il loro beniamino. Giocatore fortissimo, attaccante di tecnica specchiata, carismatico e allo stesso tempo in conclusione molto raffinato e concreto, percentuali altissime, movimento di avvicinamento a canestro da imparare a scuola, presente sotto i rimbalzi, alta percentuale, mano con un tocco dolcissimo e una classe veramente immensa. Ne parleremo della sua particolare carriera. E tra l'altro lui nel 1975 è stato considerato il miglior giocatore del mondo e non è inserito nei 50 più grandi giocatori della NBA, per cui insomma anche qui vi è un piccolo aspetto contraddittorio, se vogliamo, ma di discussione ne avremo modo per le ascoltatrici e gli ascoltatori del Mood Groove. Quando siamo così assolutisti, di solito le ascoltatrici e gli ascoltatori dicono giustamente la loro. Come ripeto sempre il numero, ribadisco che il nostro è un periodo cestistico ben preciso, ok? Dai tempi di Naismith fino ad arrivare agli anni 90. Trasformazioni, cambiamenti, proiezioni future, perché no, ma siamo incentrati sul periodo tra il 70 e il 90. E Bob McAdoo vede i suoi natali nel 1952 o 1951, 25 settembre, siamo più precisi, gli ho tolto un anno, ma questo poco importa. Nasce a Greensboro in North Carolina, frequenterà il college con risultati modesti dal punto di vista dello studio, ma per quanto riguarda l'aspetto cestistico, insomma, e quindi i risultati sono poi arrivati in maniera più concreti dal punto di vista sportivo. Prima o poi, sooner or later, loro sono gli Impressions, aprono la nostra playlist e tra poco andremo ad analizzare questa carismatica e importante figura. You know, this morning when the phone rang, I knew something was wrong. You know that funny feeling you get sometimes. Sure enough, it was a girlfriend on the phone, and she told me that she said you had a fight when you got home last night. You know, it hurt me so doggone bad, because I loved you so much. I loved you so much. But you and I both knew that. If you do wrong, you know someday, that lie. Cause he'd find out about you and I. Qualche precisazione, intanto più grande giocatore che arriva dagli Stati Uniti d'America e più grande giocatore che calcherà i parquet europei. Perché? Perché valutiamo diversi parametri che sono risultati dagli Stati Uniti d'America, risultati nel campionato di appartenenza, nostro gusto concreto, nostro gusto estetico e allo stesso tempo anche una presenza in Europa per quanto riguarda la lucidità, la forza. Come ben sappiamo, determinate figure arrivano nei campionati europei, per meglio dire, mi correggo, arrivavano nei campionati europei, diciamo, in una parabola discendente. Artis Gilmore, George Gervin, ne faccio degli esempi. Poi, appena toccavano il pallone, si capiva nell'immediato che erano di una categoria che manco si poteva immaginare, ma dobbiamo valutare anche l'aspetto del rendimento nel campionato d'appartenenza europeo. Bob McAdoo, anche per quanto riguarda l'Italia, sarà un vincente e sarà di un'importanza fondamentale. Vedremo il suo palmarès a Milano e sarà non di tutto rispetto, ma ben oltre. Trova due Coppe dei Campioni con l'Olimpia Milano nell'86-87, 87-88, una Coppa Intercontinentale nel 1987 e due campionati, due scudetti sempre con l'Olimpia Milano. Una formazione certamente importante, ma la figura di Bob McAdoo, soprattutto per impegno, abnegazione, non è sceso in campo per dire ok, mi rendo conto, concludo la mia carriera. No, tutt'altro, ha avuto modo di dare esempio di impegno e una continuità, tanto più che ha portato un termine carriera in squadre di campionati anche minori, tra Forlì mi pare, e non vorrei sbagliare, pensate, due partite a Fabriano in A2. Quindi un Bob McAdoo che certamente come figura legata alla pallacanestro in maniera viscerale ha voluto, per così dire, dare tutto. A volte confuso come un giocatore molto accentratore, ma del resto con queste qualità e queste caratteristiche non poteva che essere così. Rispondeva con certezza a questa definizione di realizzatore, tanto più che vince per 3 volte la classifica dei migliori realizzatori nella NBA, sarà Rookie of the Year dopo la scelta seconda assoluta del 1972 dalla formazione dei Buffalo Braves, che poi saranno i Los Angeles Clippers nel contemporaneo e nell'attualità. Bob McAdoo resta oltre che una figura carismatica e di abnegazione cestistica per quanto riguarda quella tecnica che a noi piace tanto, un esempio esempio da riportare sui manuali della pallacanestro. La colonna sonora che dedichiamo è della Charlie Record, di cui tante produzioni sono di Curtis Mayfield. Curtis Mayfield e Bob McAdoo magari sono artista e cestista da poter abbinare. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now is express yourself. Whatever you do. Lasciami dire, Willy, uno dei giocatori più competitivi mai visti. Lui doveva eccellere in tutto, dalle carte al biliardo, alle freccette, al ping pong, il bowling e chi più ne ha, chi più ne mette. Poteva venire a giocare qua tranquillamente, blandamente, perché quel che doveva far vedere, siccome l'aveva già fatto vedere, poteva venire a granellare gli ultimi spicci della sua onorata carriera, e invece tira fuori stagioni clamorose e porta l'Olimpia Milano sul tetto d'Italia ed Europa. Ricordiamo quel famoso tuffo in finale scudetto, forse il gesto atletico più bello di tutti i tempi del basket, la storia del basket italiano. A proposito di scelte, parliamo tanto di quel draft famoso di Michael Jordan, scelto dopo Bowie, o Bob McAdoo l'ha scelto dopo un tale Larry Martin, durato lo spazio di un mattino in NBA, eh? La Rubarti, prima scelta assoluta. People have everything and other people don't, but everything don't mean a thing if it ain't the thing you want. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. Che lui esce dal college lo stesso anno in cui è uscito Julius Irving, che viene scelto col numero 12, andrà poi a giocare nella ABA. Pensa, a proposito di paradossi, è la più grande, la più spettacolare realtà della pallacanestro, al dodicesimo seppur primo giro numero di scelta. Davanti a lui giocatori che sono durati veramente da Natale a Santo Stefano, che non sto neanche a citare. Per quanto riguarda altre figure, al numero 10 per Boston viene scelto Paul Westphal, a Detroit viene scelto Chris Ford. L'autore del primo tiro da tre punti nella storia NBA andrà a Detroit. Insomma, non è stato, bisogna ammetterlo, un grandissimo draft. Ciò non toglie che due figure come Bob McAdoo e come lo stesso Julius Irving hanno salvato il draft definitivamente del 1972. Nel 1975, ok, lui è il miglior giocatore per la stagione 1975, è il miglior giocatore della NBA per l'epoca, quindi automaticamente del mondo, sarà MVP. Mama can do it, Papa can do it, great grandfather can do it too, you too. E per i primi 50 anni della Lega hanno proposto una lista dei migliori 50 giocatori e lui è l'unico MVP di Lega a non essere inserito in questa lista. Non sono d'accordo per quanto riguarda questa esclusione. La sua carriera è di 13 anni nella NBA. Ho già detto che è scelto nel 72, pensate, e nel 73 è già rookie dell'anno, cioè è matricola esordiente dell'anno. Per quanto riguarda i successi personali nelle realtà singole, oltre tutto ciò è per 3 volte miglior marcatore della NBA, quindi vuol dire doti offensive immarcabili. Qui parliamo di una pallacanestro, anche perché si scontrava contro atleti veramente molto forti nel 74, nel 75 e nel 76. Beh, a questo punto non ci resta che portare la figura di Bob McAdoo in Italia. Sarà veramente qualcosa di clamoroso l'arrivo di un tal giocatore, farà parte di quell'ondata di atleti come George Gervin, come Artis Gilmore, come Alex English, come Adrian Dantley, che sceglieranno l'Italia. Queste sono figure che, per quanto riguarda il mio seguire l'NBA, mi avessero detto: guarda che tra 7-8 anni li troverai in Italia. Ma come, impossibile? E invece così è stato. Vedremo i percorsi anche per quanto riguarda un cambio di franchigie nella NBA e anche qualche ombra sulla carriera del nostro protagonista. Sintonizzato, perché avremo una breve presentazione letteraria. Te l'anticipo con il protagonista. È un protagonista che ha avuto pochissimo spazio in NBA. Parliamo del contemporaneo in questo momento. Mi distacco un attimo dalla biografia del grande Bob McAdoo per parlarti e per parlarvi ovviamente di Lynton Johnson, che non conoscevo. È stato autore di un lavoro appunto per motivare giovani atleti e non atleti, anche in generale nella quotidianità, e dà una particolare importanza nell'essere mattinieri, per cui ho detto perché no. Però sinceramente io non conosco Lynton Johnson, mi sono così informato velocemente, ha avuto pochissimo spazio in NBA e una carriera presente invece in quel di Avellino in Italia, e non solo, un vero journeyman della pallacanestro, questo è certo, e oltretutto trova anche la nazionalità italiana, quindi magari Paolo, che è più informato sul contemporaneo, nella seconda parte del Mood Groove avremo modo di parlarne assieme, e anche del lavoro che ha prodotto Lynton Johnson al di fuori, ma allo stesso tempo vicino al parquet, con dei parallelismi importanti. Competere ai tempi con l'altro numero uno della Lega, che era Kareem Abdul-Jabbar. Tra l'altro lui andava sempre a dire in giro che un anno il trofeo di MVP della Lega fu proprio sottratto alle sue mani e data a Kareem ingiustamente, se lo meritava lui, e questo quando giocavano insieme ai Lakers, glielo ricordava notte e giorno, penso, conoscendo Bob McAdoo. Sì, mi collego a questo aspetto tornando alla biografia, piccole confessioni se vogliamo. Sappiamo che Adam Filippi è un nostro referente, seppur da remoto, che conosce di persona queste figure. Lui scout NBA, ora in specificità di coach per il tiro, quanto mai importante negli ultimi tempi, ma ha incontrato Bob McAdoo, quando era ancora in vita, lo stesso il povero Darryl Dawkins, e ha detto: guarda, no, non fanno altro che parlare di pallacanestro. A un certo punto ero anche un po' indispettito. Bob McAdoo non fa altro che parlare della sua carriera in NBA. Beh, ne ha da dire come dal 72, scusate, al 76, gli attuali Los Angeles Clippers, al tempo sapete che le franchigie cambiavano sia nome che città, nei Buffalo Braves, dove troverà la parte più importante di carriera. Poi avrà spazio anche nei New York Knicks dal 76 al 79, qui Paolo ben informato in quanto appassionato dei new yorkesi Knicks. E beh, toccherà anche a me, però sarà luci e ombre, ho detto, una macchia, saranno 20 partite nei Boston Celtics, poi sarà messo sul mercato, non c'è stato un rendimento a Boston all'altezza delle sue capacità e del suo talento. Ombre a Detroit, anche a New Jersey, sarà una figura di secondo piano per una rinascita, pensate, dall'81 all'85 nei Los Angeles Lakers. E non è un panchinaro, No. Nell'82, nell'85, lui è uno dei protagonisti dei due anelli dei Los Angeles Lakers, Un percorso veramente completo, stella assoluta, uomo franchigia, Buffalo Braves e Bob McAdoo, uomo franchigia, differenza, MVP di stagione, tre volte miglior realizzatore, rookie of the year, MVP nel 1975. Non accetta i fallimenti o questo calo nella carriera, beh, anche un po' di fortuna ci vuole. Arriva ai Lakers, certamente non è nello starting five, ma vi posso assicurare che con questo talento, questa capacità offensiva, questa eterogeneità di movimento sia fronte che spalle a canestro, questa mano morbidissima e forza anche a rimbalzo, intelligenza cestistica e abnegazione, sì, il gesto difensivo più bello che io abbia mai visto è il recupero contro l'Enichem Livorno, in cui Bob McAdoo, l'immagine è lui steso parallelo al parquet che cerca di rubare palla da dietro all'attaccante che ormai è rivolto in solitaria verso canestro. Un gesto apparentemente disperato, ma che ha dato un segnale fortissimo per quanto riguarda l'esempio di un giocatore che non ha certo paura di farsi male o di sbucciarsi le ginocchia pur di recuperare una palla e portare una sicurezza difensiva per la sua formazione. I'm tired of sitting here waiting for you to come home, and you out someplace with somebody else. I'm gonna go out and find me somebody. And besides, you ain't got no money. Quindi io facevo coppia con un altro molto famoso e molto buono, soprattutto sui nostri parquet italiani, un'altra grande leggenda NBA comunque, tale Spencer Haywood, ma erano i Knicks già in fase calante, quelli del doppio successo NBA dei primi anni 70, rimase solo a quei tempi di quella formazione lì un ormai fine corsa Earth per Moreau, ma non se ne fece niente, la squadra fu poi smantellata in un amen. Yeah, I'm gonna do it. E io ti dico invece per Boston, mi pare che capitò insieme a un altro grandissimo fenomeno che arrivò in Italia veramente da UCLA, arriva a Boston insieme a Sidney Wicks per rilanciare la franchigia, invece entrambi non furono esattamente all'altezza, non dico delle aspettative perché magari qualcosa è andato storto e ci sta, all'altezza del loro talento. Anche Sidney Wicks, un giocatore eccezionale, hai citato Haywood, la coppia Venezia Haywood-Wicks. Runaway Love, Linda Crawford, conclude così la nostra playlist dalla label Curtom di Curtis Mayfield. Sapete che il Move to Groove nasce anche facendo abbinamenti tra la musica e alcuni cestisti protagonisti, e che è protagonista quest'oggi per i nostri più cari auguri a Bob McAdoo. Oggi le ascoltatrici e gli ascoltatori sono abbastanza d'accordo con le nostre analisi, l'altra volta erano un pochettino più in disaccordo, questa volta invece trovo più ascolto, ecco. Fisici, 2,8 metri, capacità di giocare anche da centro. Lui nel Buffalo ha fatto un paio di stagioni da centro. Pubblicità breve e concludo dicendo che dal 2000 è all'interno della Naismith Arca della Gloria Hall of Fame. No, no, hai ragione Lino, no, sono, ho avuto un momento asincrono della coppia di stranieri a Venezia. Sì, Eywood, Dalí Pajić, poi a Venezia capitò anche Wicks, giocava con un certo Seals, Bruce Seals, me lo ricordo ancora. Entrambi sono passati da Venezia, non assieme. Grazie Lino. Potremmo andare avanti per ore a parlare degli stranieri anni 70-80 capitati in Italia. Del resto il format è incentrato su questo periodo. Pubblicità, si rientra. Paolo, aspetto la tua collaborazione per parlare cestisticamente di contenuto a proposito di Lynton Johnson, autore di un lavoro, un saggio letterario che dà motivazione con una parte di attenzione specifica sull'alzarsi presto di mattina. Tutto ciò grazie a un'intervista che in presentazione in Sala Borsa ha tenuto Lynton Johnson, che ha portato Sergio Fanti della redazione culturale, che ringraziamo. A tra poco e tanti auguri al grande Bob McAdoo. Arriva dalle leghe minori, lui viene da Tulane University, è un giramondo NBA, penso che abbia cambiato una decina di squadre nell'arco di 5-6 anni, fa anche in tempo a mettersi un anello NBA al dito con i San Antonio Spurs 2005-2006, è il classico giocatore in fondo alla panchina, il classico decimo, undicesimo uomo. Io però non lo sottovaluto, perché lui è veramente un grande professionista, uno che ha sempre lavorato duro, si è sempre comportato bene, e poi se gli dai la chance aveva anche le carte in tavola per giocare, perché era un giocatore molto bravo secondo me. Chiaro che dopo l'esperienza NBA a Prod in Italia, anche qua gira un po', Varese, Scafati, Caserta, Avellino, Sassari, gioca nella nostra Serie A, e poi pian piano scende nelle varie leghe minori e penso giochi ancora in qualche serie minore nella regione campana. Comunque un grande professionista Lynton Johnson, a me è sempre impressionato. Tra l'altro mi raccontò tempo fa coach Ritacca, coach della nazionale italiana over 40, che l'aveva anche chiamato per far partecipare anche lui con quella nazionale, poi però non lo convocò, il motivo non so perché, ma secondo me ci stava molto bene in quella nazionale. Mi trovo col mitico Lynton Johnson in occasione della presentazione in Sala Borsa del suo libro Get in the Game, in cui spiega alcuni precetti, alcune regole per essere vincenti nello sport ma anche nella vita. Queste regole, Lynton, le hai ricavate dalla pratica sportiva di basket o le hai imparate di più dalla vita? No, ho cominciato a seguire questi consigli da gioco del basket. perché io penso che quando qualcuno inizia a fare qualcosa, dopo esce pensieri utili. E da un ragazzo, io ho famiglia che sempre ha giocato a basket, dentro questo gioco ci sono tante lezioni a vivere. Io ho seguito la conferenza, leggerò il libro e sono venuti anche nella presentazione alcuni spunti veramente interessanti. È praticamente, non è un decalogo perché i punti sono 5 e non 10. Su uno in particolare tu hai insistito molto, quello di svegliarsi presto la mattina. Allora, io dico sempre, per avere un vantaggio, ogni atleta che avere successo ha cominciato il suo giorno prima di tutti quanti. E per un ragazzo che vuole fare qualcosa nella sua vita, è importante a svegliare prima di tua concorrenza per iniziare il tuo giorno. Però scusami, uscendo dalla pratica sportiva, ad esempio, se uno fa un altro lavoro, per esempio anche fa lo scrittore, e ha un ritmo di vita che lo porta a andare a letto più tardi e quindi svegliarsi più tardi la mattina, tu rimani del tuo parere anche in questo caso? Ma sì, certo, perché dobbiamo provare a avere, diciamo, un tempo con sorge di sole, perché non c'è una fonte di energia più forte del sole, e se tu riesci a organizzare il tuo giorno, se tu riesci a vai a correre, a svegliare prima di sorge il giorno per avere questa energia, vitamina D che esce da sole, ma questa è la strada migliore. Però se tu hai un lavoro che impegni troppo la notte, va bene, però è migliore se tu riesci a svegliare. Allinearsi con i ritmi della natura. Super battiniero come me a queste parole. Intanto grazie Paolo per la precisa presentazione a proposito di Lynton Johnson, grazie Sergio per il motivo di dialogo Got in the Game, il lavoro di Lynton Johnson, fra l'altro oltre che onore al merito per l'impegno anche per la disponibilità. Sì, allora è meritato anche l'anello con i San Antonio Spurs. Paolo ha giocato 2 partite. Chicago, San Antonio, New Jersey, New Orleans, Phoenix, Toronto, ritorno poi ai Chicago Bulls. È un'ala, tipica ala, così un po' chi ha sensazione cestistica riesce a intuire dai dati, anche 2-2-2-3, un'ala. Sicuramente un lavoratore di grande disponibilità. Condivido le sue parole sull'essere mattiniero. Una cosa molto interessante che tu hai detto, ti hanno chiesto come ci si fa a divertire quando il basket diventa un lavoro, una professione, e tu hai detto bisogna rendere divertimento l'imparare ogni cosa, una cosa al giorno. Sì, perché quando tu sei un bambino e tu stai giocando, questo è il modo a imparare, perciò devi fare ragazzi a giocare. E come un professionista noi diciamo sempre, se tu riesci a imparare le cose nel giocare di te stesso, che cosa fa di essere triste, che cosa ti fa di essere felice, ma questo è un modo a avere passione e divertirsi. Raccomando quindi questo libro, Get in the Game. Per ultima cosa ti chiedo una domanda di basket. Tu che hai giocato con tanti campioni, ce n'è uno che ti è rimasto nella memoria, nel cuore, e perché? Scottie Pippen, perché lui stava nella mia mente per tanti anni quando ero ragazzo, e io riesco da lui che i pensieri sono forti, sono reali, e devi fare attenzione a che cosa tu pensi, perché quando io stavo pensando a lui e ne avere un'opportunità a giocare uno contro lui come io avevo pensato, questo è la vita, questo è tutto. Bene, ti ringraziamo, ricordiamo ancora il titolo del libro di Lynton Johnson, Get in the Game. Ciao. Grazie a tutti. E chiudiamo in maniera circolare il compleanno di Scottie Pippen. Magari anche Lynton Johnson ha mandato gli auguri a Scottie, il giocatore che ha lasciato in maniera incisiva l'esperienza più importante a questo altrettanto campione, perché da come parla è campione nella vita. Poi stiamo parlando di chi ha calcato dei parquet NBA e da chi ha fatto la differenza in Italia, e poi con una grande disponibilità. Pensate, atleti come Dan Gay, come lo stesso Lynton Johnson, che arrivano in Italia, cambiano completamente l'aspetto di abitudini, quotidianità, e allo stesso modo si trovano benissimo, anzi hanno un'altra possibilità di vita, veramente un esempio. Grazie Sergio e grazie Paolo. Grazie a voi per l'attenzione, per l'ascolto di questo Move to Groove che ritornerà martedì prossimo. Domani voltiamo pagina con un altro ritorno, quello di Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi, la presentazione letteraria, libri a colazione. A presto con l'EDP enciclopedico dopo la pubblicità, e avremo a seguire Liberi Dentro, quindi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Vi aspetto a colazione domattina, puntuali alle ore 7. Sentito Lynton Johnson? Bisogna alzarsi presto, perché la luce del sole fa bene, e quindi ci auguriamo anche una bella giornata di sole. Un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.